C'è un'aria strana stasera e torno a casa in silenzio, tra i rumori del traffico, il telefono spento e la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti e già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. Strana nel cielo, esco da casa in silenzio, non è ancora neanche l'alba, ma a dormire non ci penso. Io cerco solo di capirti e la notte non ci dormo. Se soltanto avessi pace saprei essere come loro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. E ti dedico il rumore di queste inutili parole, un quadro senza il suo colore che è andato via a volare altrove. Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo e tanto tu non mi rispondi. E tanto poi se mi rispondi dici che non siamo pronti.